sul territorio, negli apparati e le istituzioni. Quando si fa riferimento al fenomeno talpe, al fenomeno traditori, tradimento, che è una parola che abbiamo usato anche in passato con riferimento all'indagine palermitana delle talpe, si fa riferimento a un fenomeno complesso dentro al quale stanno insieme, dalla corruzione spicciola fino a fenomeni più complicati, più alti. C'è il fenomeno corruzione, ma c'è il fenomeno anche di controintelligence sull'attività dello Stato, che è quella più pericolosa. Se Cuffaro è appena entrato in carcere, altri ex politici stanno scontando analoghe pene. Il procuratore Maurizio De Lucia. Occorre evidentemente un controllo dei funzionari pubblici, e ci metto anche i magistrati naturalmente. Penso ad esempio al controllo costante dei loro patrimoni e del tenore di vita, perché è chiaro che le organizzazioni possono minacciare per avere informazioni, ma preferibilmente possono svolgere attività corruttive. In che modo queste fughe illecite, diciamo, di notizie così riservate sono anche una delle ragioni delle lunghe latitanze di Boss? Certo, se noi collochiamo una microspia, il capomafia viene informato, tutta un'indagine, quindi non è soltanto un allungamento dei tempi, ma è un dispendio di energie, di mezzi, di denaro, viene vanificata. E nelle gallerie delle talpe, dunque, che ci sono anche parte delle spiegazioni delle lunghe latitanze dei Boss. Italia in controluce. Ritrovate le storiacce sabato prossimo alle 13.15 su Radio 24. 27 gennaio, giorno della memoria per ricordare le vittime del nazismo e del fascismo. Daniele Biachessi parla con Pippo Pollina, cantautore, scrittore, proprio dell'importanza del ricordare. Pippo Pollina, un tour e un libro sulla memoria italiana e non solo. La memoria è sempre stata importante per me, non soltanto perché odio le dimenticanze, odio la tendenza che abbiamo a triturare tutto, quello che accade, ecco, sull'altare di quello che verrà, quindi sull'altare del futuro, ma perché penso che bisogna oggi più che mai fare tesoro delle esperienze avute anche di recente per imparare da quello che accade e quindi non commettere sempre gli stessi stupidissimi errori. Che cosa può fare un artista? Per esempio, tu dal vivo in questo tour e anche nel libro parli di molte storie italiane, c'è una fuga da una Sicilia mafiosa dopo la morte di Pippo Fava. Guarda, io mi sono soltanto reso conto dopo che la scelta di lasciare l'Italia è stata proprio, come dire, una sorta di esilio. E me ne sono reso conto anni e anni dopo, quando ho voluto dare delle spiegazioni a tutto quanto mi è accaduto. Io mi sono reso conto quel momento lì che l'Italia sarebbe potuta diventare ciò che poi effettivamente è diventato, un luogo in cui è difficile veramente non soltanto trovare una posizione nella società, ma riuscire ad esprimersi, e come artista poi non ne parliamo, e quindi a me in quel momento non rimase altro che trovare una via di fuga e cercare altri luoghi. Ma ripeto, me ne sono accorto soltanto dopo che si è trattato proprio di una scelta di questo tipo. All'inizio io, quasi per trovare una scusa con me stesso, mi dissi: mi prendo 3-4 mesi di pausa e faccio un giro del mondo, un viaggio, ecco, e finanziare questo viaggio attraverso la musica di strada. La musica si rivelò una sorta di ponte levatoio fra me e gli altri, consentendomi poi di fare tanti contatti, di imparare anche altre lingue e di trovare nelle altre culture una compensazione. Poi ci sono altre storie, per esempio la strage di Ustica. Sì, questa è stata una storia importante, ho avuto l'avventura di incontrare nel mio cammino, perché l'associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica mi contattarono nella persona di Dalia Bonfietti nel 2006, perché volevano scrivessi un'opera dedicata a questo argomento in occasione dell'apertura del Museo della Memoria, guarda caso, ritorniamo alla memoria, che si aprì a Bologna nel 2007, dove vennero raccolti i resti del 19 abbattuto. Pensai di proporre uno spettacolo misto fra teatro e di musica, dove le canzoni e i dialoghi e i monologhi potessero ripercorrere questa vicenda tragica della nostra storia, ma che a mio modo di vedere è molto emblematica per il nostro paese, perché mette in evidenza tutte le sue qualità, tutte le sue virtù, ma anche tutte le sue tutti i suoi difetti, tra cui proprio quello della dimenticanza. Non fare mai chiarezza su quanto accaduto, perché il potere non lo vuole, perché la cultura del potere nel nostro paese è molto, molto forte, come i fatti recenti dimostrano, e impediscono alla verità di uscire a galla. Ustica è uno di questi esempi. Tra le tante storie c'è anche il golpe in Cile, perché tu hai avuto la sfortuna di incontrare uno dei più terribili dittatori della storia contemporanea mondiale, cioè Pinochet. Sì, è così. Io ho iniziato a fare musica a fine degli anni 70 interpretando le canzoni degli Intillimani, quindi quelli che comunque importammo da questo gruppo che venne a vivere in Cile durante gli anni del golpe militare e gli anni della dittatura cilena. Nel 1994, nella città dove vivo da alcuni anni, io ebbi l'avventura a Zurigo, appunto, di incontrare per strada nella zona pedonale il dittatore Pinochet da solo, mentre osservava degli orologi di lusso in una vetrina nel centro. Ecco, e io lo riconobbi subito, perché chiaramente è una faccia poi inconfondibile, perché si è occupato di questi problemi, la sua faccia era comunque abbastanza nota. E io mi misi accanto a lui per cercare di vedere, talmente stupito, a un certo punto non potevo fare a meno di guardarlo, di chiedergli in spagnolo se lui fosse veramente Augusto Pinochet. Lui mi guardò inorridito perché ebbe paura, io lessi subito il terrore nei suoi occhi, che io potessi essere magari uno di quei esuli cileni venuti a vivere in Svizzera, a cui lui magari aveva eliminato qualche parente o qualche figura importante, qualche amico. Ma non abbiamo avuto molto tempo, perché due secondi dopo sono sbucati fuori 4 o 5 guardie del corpo di dimensioni che non ti dico, e che lo hanno preso, lo hanno prelevato, messo in una macchina posteggiata da vicino, e uno di quelli mi chiese: come fai a conoscerlo, perché lo conosci? E io cercai di organizzare quel giorno una demo, una piccola manifestazione improvvisata sotto l'ambasciata cilena a Berna, e poi insomma poi fu reso noto il fatto che il dittatore Pinochet era venuto in Svizzera per depositare ingenti somme di denaro in una banca privata di Zurigo. È tutto anche per oggi. Italia in Controluce. Potete trovarci su Facebook o potete scriverci via mail controluce@radio24.it. Buona giornata.